Radio Città Fujiko e l'Università Primo Levi presentano Guida all'ascolto della musica classica, tre secoli di creatività musicale. A cura del professor Stefano Malferrari. La sonata che vi farò sentire, che è la sonata opera 13, la Patetica. Il primo editore, Eder di Vienna, la pubblicò mettendo sonata per clavicembalo o forte piano. È evidente che lo strumento che poteva dare queste sonorità era il forte piano. È chiaro che un editore della fine del Settecento, e la sonata di Beethoven di cui parleremo, è di 20 anni successiva a questa, quindi ormai erano 100 anni, erano 99 anni che c'era il forte piano, era probabile che all'epoca fosse più presente nelle abitazioni il clavicembalo ancora, piuttosto che il forte piano. E se immaginiamo, è chiaro che dobbiamo immergerci in un'altra realtà, la realtà dove un giornale locale, come ce n'erano in tutte le città, pubblicava la notizia, è stata pubblicata l'altro ieri l'ultima sonata di Ludwig van Beethoven, o l'ultima sonata di Wolfgang Amadeus Mozart, o Ignaz Moscher, adesso è avanti così, anche tanti compositori poi usciti dalla grande memoria della storia della musica. Però i giornali pubblicavano l'uscita di una nuova opera, così come oggi vengono pubblicate gli annunci dell'uscita del CD di un cantautore. E quindi chi sapeva leggere, chi aveva la cultura per essere informato, è chiaro che andava poi presso un editore o presso un commerciante di musica a chiedere l'ultima sonata del tale compositore. E quindi è chiaro che se una sonata veniva pubblicata con sonata per forte piano, poteva anche essere qualcosa di non comprato, perché magari l'acquirente in casa aveva ancora, in modo obsoleto se vogliamo, un clavicembalo. La sonata opera 106 di Beethoven, quindi la quart'ultima sonata, è denominata Hammerklavier, cioè tastiera a martelli, perché Beethoven specificò che doveva essere la sonata per pianoforte a martelli, che non ci fossero dubbi, e quindi è il primo momento in cui un compositore decide che, a costo di non vendere, e Beethoven di questi momenti ne ha passati tanti, anche opere rifiutate da diversi editori perché ritenute ineseguibili per il pubblico che andava a comprare musica, e poi per il piacere di leggerla a casa si metteva davanti allo strumento e leggeva quel brano. I quartetti opera 59 ne sono un esempio, una delle massime produzioni del patrimonio musicale che ci ha lasciato Beethoven, vennero rifiutati perché ritenuti ineseguibili tecnicamente, e in effetti sono l'opera forse più scomoda, credo, per gli strumentisti d'arco che suonano in quartetto della produzione beethoveniana, più delle ultime opere, l'opera 130, l'opera 131, che sono i massimi vertici, credo, del pensiero umano espresso in suoni. Ma l'opera 59 viene rifiutata perché è troppo ostica anche da capire. La musica è un piacere sensibile sentirla, ma c'è una logica di composizione che è anche un piacere capire. Ecco, per l'epoca i quartetti opera 59 erano troppo arditi, troppo innovativi per essere fruiti dalla normale comprensione del pubblico. Del resto, la sonata opera 13 è stata scritta nel 97, pubblicata nel 98, di un Beethoven 27enne che non aveva potuto studiare con Mozart. Tra l'altro anche questo fatto, se immaginiamo che un 17enne di Bonn, Beethoven, riesce a coagulare attorno a sé i fondi da parte di mecenati per andare a Vienna a studiare con chi? Non con Haydn, ma con un 31enne, con un Mozart che ha 31 anni. Beh, Mozart doveva essere già veramente di una popolarità. È evidente, lo sappiamo, ha scritto le prime opere che aveva 10 anni, 11 anni, ma in ogni caso doveva essere una popolarità riconosciuta anche come maestro, maestro con la M maiuscola, maestro riconosciuto fuori da Vienna, fuori dall'Austria e nella Germania, di coloro che erano nobili o comunque amatori facoltosi di musica. Ecco, Beethoven che non studia con Mozart, ma che va comunque 5 anni dopo, nel 92, a Vienna per studiare con Haydn, e in parte studierà con Haydn. Haydn era un maestro riconosciuto, perché comunque nel 92 aveva 52-57 anni, era comunque un maestro nella maturità. Haydn, il maestro della forma classica, della forma sonata, non perché l'avesse inventata o avesse messo dei paletti, semplicemente perché la nobilitò. La forma sonata non ha delle regole, ha delle abitudini estetiche, delle abitudini architettoniche. Chiaramente non c'è nessun vincolo che faccia sì che un compositore non ne voglia uscire in qualche modo, cosa che è sempre stata, anzi regolarmente. È più che altro una impostazione alla quale i compositori si sono tutti, in gran parte, in minima parte, ma comunque si sono tutti attenuti fino a quando Beethoven ha cominciato a distruggerlo. Beethoven che va a studiare con Haydn, il maestro della forma sonata, che scrive 7 sonate prima della Patetica, che cominciano tutte con l'allegro che si aspetta il pubblico, che si aspetta l'amatore di musica, che si aspetta il maestro, che si aspetta il musicista, ma che si aspetta anche l'amatore che va a comprare un libro e immagina di vedere che quel libro comincia nel modo più o meno ipotizzato. E Beethoven comincia l'opera 13 non con un allegro, ma con un grave, l'opposto. Immagino, se vogliamo vedere le cose in maniera molto quotidiana, l'appassionato di musica, il fan di Beethoven, che prende uno spartito appena uscito del suo compositore prediletto o comunque di uno dei compositori maggiormente famosi dell'epoca, che si aspetta di trovarsi un allegro iniziale, comincia con un grave. È qualcosa che probabilmente lasciava quantomeno senza parole, forse anche nell'ipotesi di essere di fronte a una sciocchezza o comunque a tutte le critiche possibili. Dicevo, l'opera 13, l'editore Eder la pubblica scrivendo sonata per gravicembalo, in italiano molto approssimativo, ma sonata per gravicembalo o fortepiano. E Beethoven non ha la forza di opporsi, ma con una sonata che è chiaramente una sonata per fortepiano, perché è tutta basata sui contrasti, al punto che l'editore decide, con Beethoven consenziente, di soprannominarla Patetica, perché è sorpreso da questa enorme presenza di contrasti sonori tra il forte e il piano, tra il drammatico e l'energico, che all'editore richiama in qualche modo l'idea di pathos, di lotta tra forze contrapposte, e quindi suggerisce a Beethoven di soprannominarla Patetica. Grande sonata patetica, grande non perché il minutaggio sia diverso dalle altre, anzi, Beethoven ha scritto anche di più lunghe. L'opera 2 numero 3, dedicata a Joseph Haydn, dura quasi mezz'ora, che per l'epoca era assolutamente anomalo. In 4 tempi canonici, forma sonata precisa, primo movimento, secondo un lead, terzo movimento un minuetto, quarto movimento un rondò. C'è solo un punto dove, nel primo movimento, siamo in do maggiore. Nella tonalità di do maggiore ci sono delle armonie che sono più vicine all'armonia di do maggiore, per esempio fa maggiore. Sol maggiore vicinissima a do maggiore e via dicendo. Ce ne sono alcune un pochino più distanti, per esempio un po' più distante magari c'è mi minore, però non troppo. Comunque sono armonie in cui ci ritroviamo. Ecco, Beethoven scrive questa sonata perfettamente dentro i canoni dello stile della forma sonata elevata da Haydn, e in un punto dove il do maggiore è confermato, è ribadito, insomma, per il nostro ascolto siamo appoggiati sul do maggiore. Do maggiore. Do maggiore. Ci vorrebbe un altro do maggiore. E invece mette una tonalità di La bemolle che è lontanissima da Do maggiore in quello che è la grammatica musicale, e sembra quasi per un secondo che lo studente voglia elevarsi al di sopra del docente, quasi a dire: rimango dentro la forma che il mio maestro mi ha elevato ai più alti punti di arte musicale, però si può fare anche qualcosa di nuovo. e veramente squarcia la sonorità che abbiamo assimilato per i primi 5-6 minuti della sonata con un accordo totalmente fuori luogo, e attraverso questo accordo, a poco, in modo estremamente magistrale, ritorna piano piano al do maggiore, quasi come dire ci si può anche allontanare improvvisamente tantissimo da quello che conosciamo, poi ci ritorniamo. A poco tutta la produzione di Beethoven è costellata di questi squarci, che a volte, come in questo caso, sono soltanto un momento. Beethoven in tutta la sua produzione si rifà a quanto conosciuto per variarlo, per cambiarlo. Ecco, nella Patetica Beethoven mette sì allegro di molto e con brio. C'è l'allegro iniziale, e quindi c'è la forma sonata, c'è l'allegro iniziale con l'esposizione, con lo sviluppo e con la ripresa, c'è tutto. Con Beethoven c'è il grave che ritorna, c'è l'inizio, poi c'è l'esposizione dell'allegro, finisce l'esposizione dell'allegro, c'è di nuovo un grave, poi c'è lo sviluppo, c'è la ripresa e prima dell'ultima parte, la coda, c'è di nuovo il grave. È veramente una contrapposizione non solo di sonorità, ma di stati d'animo, di slanci emotivi, di drammaticità. E quindi immaginiamoci cosa poteva essere per il pubblico inteso come anche acquirenti di musica. Quello era il vero pubblico, poi il pubblico dei concerti fondamentalmente erano i nobili, ma gli amatori di musica cosa potevano provare di fronte a qualcosa che era assolutamente nuovo, qualcosa che non capivano anche. È la cosa più bella, quello che non riusciamo a capire, non interessarci a quello che non riusciamo a capire, anche perché forse siamo noi che sbagliamo, ma del resto interessarci a quello che capiamo è facile. Ecco, con Beethoven sicuramente c'era lo sbaglio di non capire la novità di questa rottura degli schemi. E abbiamo questo tema. Che è un'alternanza tra questo fortissimo e il piano quasi compresso che abbiamo subito dopo. Questo grave non è che dura 3 secondi, copre almeno il primo, copre un paio di minuti. E quindi immaginiamoci la novità per chi leggeva questa musica. Tra l'altro una novità strana, perché il grave iniziale lo si trovava anche talvolta come preludio delle suite. All'epoca di Bach non era rarissimo che una suite o una partita, era la stessa cosa della suite, una composizione in più parti veniva definita partita. Non era poi raro che il preludio come inizio avesse un grave, quasi come se ci si volesse accomodare su una tonalità con un tempo ampio. Però con Beethoven non è un grave di accomodamento, è un grave che diventa quasi una lotta tra il forte e il piano, cioè è un grave che ha più agitazione questo di un allegro. Ecco, poi continua con un tema. Queste 3 note sono le stesse in tonalità maggiore delle note iniziali. Io a volte cito il fatto che quando noi sentiamo queste note, le riconosciamo, sono il tema della Quinta Sinfonia di Beethoven. È quello che è stato chiamato il tema del destino, che percepiamo come drammatico. In realtà sono solo delle note spoglie. Quello che il nostro orecchio avverte è che la tonalità proposta da Beethoven con queste 3 note è la tonalità di do minore. In pratica abbiamo questa tonalità. Che sentiamo come drammatica, come tragica, ma se le stesse note avessero un sottofondo, un accompagnamento armonico differente. Con le stesse note, ma possono avere un altro carattere. Con le stesse note cambia soltanto lo sfondo armonico. Semmai è impressionante che il nostro orecchio, attraverso solo queste note, capisce già di cosa stiamo parlando, cioè dà già una definizione armonica. Non è che c'è l'equivoco che possa essere un tema sereno. Non si confonde mica il nostro orecchio. Lo percepisce già come se andasse a immaginare le note che mancano. Queste non ci sono. E sono quelle che danno il colore. Però il nostro orecchio le sente già. Ecco, in questo caso abbiamo il tema della sonata patetica che viene proposto in tonalità minore. E qui in tonalità maggiore. È tutta un'altra cosa. Quasi consolante, quasi languido. È bastato cambiare l'armonia e quelle stesse note cambiano completamente il loro aspetto. Ecco, a questo grave fa seguito l'allegro, quello che è la vera e propria esposizione del brano, quella che alla fine dell'allegro viene ritornellata. Vi dicevo che Mozart, Beethoven, per poter far meglio capire la propria musica, la ritornellavano. Arrivati a un certo punto ci si fermava e si riprendeva da capo. Ecco, Beethoven, che sa di aver fatto una cosa impropria nel mettere il grave all'inizio, il ritornello lo fa per tradizione, per ripartire dall'allegro. Non riparte dal grave come doveva essere la ripresa completa dell'esposizione. Quindi l'esposizione vera e propria parte da qua. Questa è quella che potremmo definire la linea melodica, ma se ascoltiamo l'accompagnamento da solo, abbiamo questo. In pratica non c'è un qualcosa che possiamo definire in un modo preciso, se non il fatto che è il rullio dei timpani, quasi un rumore. Quindi questo non è altro che il creare un colore che va a esaltare la linea melodica, che è poi una semplice scala verso l'alto. Ma attraverso questo rullio di timpani prende un carattere drammatico, agitato sì, ma non più agitato come in Mozart, quasi un agitato felice, ma un agitato di tensione drammatica. Ecco, anche qui abbiamo un primo tema, un secondo tema che in Mozart era decisamente più languido, qui è più cantabile. Languido, quello no, sicuramente più dolce, un po' più morbido rispetto al tema dell'allegro iniziale. Ecco, la cosa che però è rilevante è il fatto che questo tema cominci qua, prosegue qui, riprende qui, prosegue qui. In pratica non ha più una collocazione all'interno di un registro del pianoforte, ma passa da una parte più bassa a una parte più alta e viceversa. Quello che succede in orchestra, quando una linea tematica è sposta, per esempio in questo caso dai fagotti, prosegue con l'oboe, riprende con i fagotti, prosegue l'oboe, e praticamente passa da un registro timbrico all'altro, come se fosse la scrittura dell'orchestra. Poi c'è il beat. che come in Mozart è un adagio cantabile. Questa linea melodica non viene esposta dagli strumenti alti, acuti, non viene esposta dai violoncelli, dalla voce maschile, poi viene presa dai violini, viene presa da una parte più alta, più acuta, ma viene esposta da un registro che era meno consueto. È un secondo movimento che ha una caratteristica fantastica, secondo me, perché se provate a sentire il secondo movimento della sonata in Do minore di Mozart, una delle ultime opere della sua vita, sentite questo e sentite la sonata in Fa minore di Brahms. È impressionante sentire come c'è quasi un trilignon tra un compositore che ha scritto una sonata nel 1780 e un compositore che ha scritto una sonata a metà dell'Ottocento. Mozart e Brahms, collegati da Beethoven. Il carattere di questo secondo movimento, che è molto simile a un qualcosa che già innuncia in Mozart, viene amplificato da Brahms, 40 anni dopo la morte di Beethoven. Questo secondo movimento, che anche questo è in tre parti, A, B, A. La parte B è quasi un duetto tra questa parte e questa. È come se ci fosse un dialogo tra due voci diverse, una più acuta, una più bassa, e poi riprende la parte A. Con una differenza che mentre la prima volta viene esposta con questo accompagnamento, statico, morbido. Quando viene ripresa la parte A, poteva benissimo riprenderla nella stessa maniera, in modo uguale, era tipico. La riprende variata. Da quasi più movimento. E anche se è una piccolissima cosa, il nostro orecchio si accorge che c'è qualcosa di diverso. Non sappiamo perché. Però se fosse scritto nella stessa maniera, probabilmente lo sentiremmo come qualcosa di un po' più, non dico noioso, però di aver sentito. E invece basta un particolare minuscolo che non sappiamo codificare, parlo per chi non ha una frequentazione abituale con la grammatica musicale, ma il nostro orecchio sente come un elemento nuovo. Non si sa perché, ma quella linea melodica sembra nuova, è la stessa di prima. Ma attraverso un piccolo accorgimento grammaticale diventa una nuova idea, gli sembra proposta in un modo più agile, più fresco. E poi abbiamo il rondò finale. Anche questo A, B, A, C, A, B, A, la forma completa del rondò. Ha però una cosa, a questa linea melodica è questa. Questa linea melodica è la stessa che avevamo qui. La stessa linea del rondò è il secondo tema del primo movimento. Dà già un'idea di quello che sarà la sonata ciclica, e quando un tema viene proposto all'inizio e lo ritroviamo magari periodicamente o lo ritroviamo comunque alla fine della sonata. Solo che questo lo troviamo in Liszt, nella sonata in si minore del 1854. Lo troviamo nei compositori del primo Novecento. Ecco, con Beethoven c'è questa idea. Scrive un tema per il rondò che recupera pari pari dal secondo tema del primo movimento. Anche questa è una libertà che per noi, dopo 200 anni, va bene così, ma per l'epoca era assolutamente fuori dalla norma, fuori dal comune. Poteva essere criticata come mancanza di idee, non è certo quello, ma sicuramente qualcosa che va a scardinare delle abitudini, a togliere delle certezze di ascolto. Ecco, questa è la sonata in Do minore, opera 13 di Beethoven, tre movimenti. Primo, grave, trattino, allegro con brio, con questa alternanza. Secondo tempo, adagio cantabile. Terzo movimento, rondò presto, anche in questo caso un tempo brillante. Ecco, volevo dire l'ultima cosa relativo al primo movimento della sonata di Beethoven. Quando si ripropone per la terza volta il grave, quindi questa alternanza estremamente marcata tra il forte e il piano, la terza volta Beethoven elimina gli interventi forte. Ci sono soltanto le parti che aveva già utilizzato nel piano. Al posto del forte c'è il silenzio. E quel silenzio è molto, molto più pesante, molto più gridato che se ci fossero le note con il forte come abbiamo sentito fino a quel momento. Avete ascoltato? Guida all'ascolto della musica classica. Tre secoli di creatività musicale. A cura del professor Stefano Malferrari. Trasmissione realizzata da Radio Città Fujiko in collaborazione con l'Università Primo Levi e con il contributo della Regione Emilia-Romagna.